America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Barack Obama ha lasciato il clima politico torrido, dobbiamo dire, della capitale per rifugiarsi all'estero, da dove nel glamour degli incontri di Stato cercherà di ricordare, o quantomeno farà del suo meglio per ricordare agli americani che, nonostante i risultati disastrosi, diciamo, alle elezioni, il presidente resta lui con tutti gli onori che ne conseguono. Naturalmente non mancano le polemiche che sono già rientrate a casa e che fanno la gioia dei repubblicani. Che cosa è successo? Che i giornali indiani hanno pubblicato una serie di notizie secondo cui questo viaggio, tra virgolette, imperiale del presidente americano sarà forse il più grande della storia. Hanno calcolato che ci saranno 3.000 persone al suo seguito, che ci saranno 200 uomini d'affari per così siglare degli accordi a Mumbai in particolare, e che ci saranno una quarantina di aerei, motovedette per la sicurezza. Insomma, hanno fatto anche i conti in tasca alla Casa Bianca. Hanno detto che questo viaggio costerà in India, attenzione, $200 milioni al giorno. Possibile, ma secondo me è una cifra esagerata. La Casa Bianca ha immediatamente smentito, ma i repubblicani ne approfitteranno lo stesso per, come dire, rompere le uova nel paniere del presidente sconfitto. L'agenda è molto molto stretta. Barack Obama cercherà in Indonesia di dimostrare che nel mondo islamico una democrazia è possibile. Ricordiamolo, l'Indonesia è il paese islamico più popolato al mondo, e dunque proprio da lì Obama andrà in visita alla moschea Istiqlal, la più grande della città. Ha un programma, un discorso all'aperto con una conferenza stampa con il presidente indonesiano Susilo Bambang Yudhoyono. L'obiettivo centrale di questo viaggio è quello di sottolineare come l'Indonesia resti l'esempio possibile di una democrazia islamica e un crocevia centrale fra Occidente e mondo musulmano. Ecco, intendiamoci, non è che Barack Obama sia davvero fuggito. Questi viaggi erano in programma da parecchio tempo, anzi erano degli appuntamenti, come dire, fissati da anni, perché a cavallo di questo viaggio ci sarà il G20 in Corea, tappa molto importante questa del G20, perché avviene subito dopo l'annuncio formale ufficiale del QE2, della manovra accomodante quantitativa da $600 miliardi da parte della Federal Reserve, che insomma è stata presa un po' come una provocazione annunciata naturalmente, ma pur sempre una provocazione dalla maggioranza degli altri membri del G20. Perché? Perché con questa manovra la Federal Reserve faciliterà una riduzione del dollaro, un indebolimento del dollaro, per consentire il recupero di competitività alle esportazioni da una parte e per garantire la tenuta molto bassa dei tassi di interesse, soprattutto quelli a lunga, che sono centrali per consentire alle aziende di indebitarsi per lo sviluppo. Dunque polemica attesa nel G20. Detto questo, a parte la connotazione multilaterale, insomma, l'aspetto bilaterale resta molto importante, ad esempio in quello coreano. 존경하는 국민 여러분, 한반도 정세가. La voce che avete sentito è quella di Lee Myung-bak, il presidente coreano. Devo dire, quando l'ho visto nel vertice precedente tra Barack Obama e appunto Myung-bak, mi è sembrato un uomo molto deciso, molto duro. Ha tenuto il timone ben dritto nel suo incontro bilaterale con Obama, e soprattutto ha dimostrato una grande padronanza delle tematiche in discussione, soprattutto quelle commerciali. Al centro di questo incontro bilaterale c'è un accordo per la liberalizzazione dei commerci. Allora, e stiamo parlando di circa un anno fa, non si riuscì a fare nulla. Questa volta si dovrebbe fare un passo in avanti decisivo. Detroit resiste perché ritiene che in questo accordo in embrione non ci sia una liberalizzazione sufficiente che consenta di facilitare le esportazioni di auto americane in Corea. Qual è il rapporto? Tanto per darvi un'idea del perché aziende come la Ford, che ha comprato una pagina di pubblicità sui giornali americani per attaccare questo accordo, siano furibondi. Perché la Corea del Sud vende in America, o meglio nel 2009 ha venduto in America 502.000 automobili. Sapete quante ne ha vendute la Ford? 3.000. Una lotta impari dunque, e su questo gli Stati Uniti dovranno cercare di fare un passo in avanti, quantomeno per addolcire i sindacati in quella che è una very unusual, molto inusuale alleanza fra vertici di un'azienda, la Ford, ancora a conduzione tra virgolette familiare, e i sindacati che in genere sono schierati sul fronte opposto. Infine la tappa giapponese: Barack Obama ha bisogno di ricucire con Tokyo, perché c'è stato un episodio sempre nel viaggio dell'anno scorso piuttosto imbarazzante per Washington, perché Washington si è ostinata, forse giustamente dal suo punto di vista, nel forzare la mano dei giapponesi per rinnovare il contratto d'affitto della base americana di Okinawa. La popolazione locale non ne voleva sapere, c'erano stati episodi di violenza, di stupro di alcune ragazzine da parte di soldati americani, e il primo ministro giapponese di allora, Taro Aso, si era appena insediato al governo dopo una vittoria che aveva conquistato proprio grazie alla sua campagna che voleva gli americani fuori da Okinawa. In questo incontro nel meraviglioso palazzo del governo giapponese si capì che la tensione era forte, perché Taro Aso non poteva fare marcia indietro, era stato appena eletto, e Obama a sua volta insisteva. Risultato: Taro Aso a settembre ha dato le dimissioni, c'è un nuovo governo, ma Barack Obama avrebbe potuto rimediare con una visita a Hiroshima e Nagasaki, dove alla fine della Seconda Guerra Mondiale ci furono i due unici attacchi atomici della storia. Ebbene, fonti della Casa Bianca ci hanno detto che per ora non succederà, lo farà in futuro, ha detto Ben Rhodes, numero 2 del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Infine, in Giappone continuerà la passeggiata lungo Memory Lane, perché ai margini degli incontri dell'APEC a Yokohama, Obama farà una scappata a Kamakura per vedere il grande Buddha, dove lo portò già sua madre quando era bambino. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, questa è una cosa che ricordo dai miei tempi, perché si è sempre creduto che la canzone di Billy Joel, Uptown Girl, fosse dedicata alla famosa modella Christy Brinkle. E invece il New York Daily News ha detto che no, la vera Uptown Girl, quindi signora ragazza dei quartieri alti, era Elle Macpherson, che fu una precedente fidanzata del cantante. La notizia è di ieri e dunque di Billy Joel, Uptown Girl. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì dal viaggio asiatico del presidente Obama. Goodbye and get going! America 24.